Arrivo, arrivo, aspetti me domani a mezzogiorno. È messa a strenzo che a pensare che te vedi, prepara due raie che se mangiamo. Arrivo, arrivo, domani ritorno dopo tanti anni. Non gaffeggevo più a sta lontano da te, invita anche te l'alla che parlemmo. Quando è a parte io che avevo qualche franco, l'idea di fa fortuna me scialava. Ora ritorno senza una palanca, speremo che te l'alla na giancona. Arrivo, arrivo, t'aspetto tutto il giorno in sciabanchina. Se quando è t'arriviene ti me conosce, son quello che ne bragare per sé. Arrivo, arrivo. Quando è partito che avevo qualche franco, l'idea di far fortuna me scialava. Ora ritorno senza una palanca, speremo che te l'alla na giancona. Arrivo, arrivo, t'aspetto tutto il giorno in sciabanchina. Se quando è t'arriviene ti me conosce, son quello che ne bragare per sé. Arrivo.